prossimo tuo. Rubrica in collaborazione con la Caritas. Di nuovo bentrovati con il nostro appuntamento insieme alla Caritas di Padova, anche oggi con Beatrice Barrichello, con cui stiamo approfondendo dalla settimana scorsa alcune delle tante iniziative estive. Ben ritrovata Beatrice. Grazie, buongiorno a tutti. Abbiamo lasciato in sospeso la settimana scorsa due iniziative, una che si svolge in città a Padova, una invece al di là del mare Mediterraneo, a Tunisi, un campo di servizio. Partiamo proprio da questa perché un po' quella fosse un po' più strana, visti gli ultimi accadimenti di qualche settimana fa. Un campo di servizio che è dal 22 di luglio al 2 di agosto, quindi un tempo abbastanza corposo, una decina di giorni, per fare cosa? Allora, si farà principalmente servizio e con l'occasione, visto che siamo appunto in una città a noi lontana, ci saranno alcuni momenti di conoscenza della città e saranno i primi 3 giorni in cui assieme a dei padri che ci ospiteranno per tutta la settimana gireremo un po' la città, conosceremo altri giovani e avremo modo di approfondire alcuni temi come i diritti umani, come l'immigrazione, l'emigrazione e il dialogo interreligioso. Poi dal lunedì al venerdì ci sposteremo a Bizerte, che è una cittadina proprio a nord della Tunisia, vicina al mare, in cui organizzeremo assieme a delle suore un centro estivo per bambini e per questo è anche importante conoscere un po' il francese, perché appunto con questi bimbi si parlerà francese. La città è proprio vicina al mare, quindi non mancherà anche una scappatella in spiaggia. Il campo poi si rientrerà a Tunisi per partire e tornare a Padova il 2 di agosto. A che età è rivolta questa proposta? Giovani sempre dai 18 ai 30-35 anni. Puoi darci un costo indicativo, perché chiaramente c'è un viaggio, ci sono ovviamente delle spese? Sì, Caritas, proprio perché crede molto in questa esperienza, dà la possibilità di compartecipare alla spesa per il 50%, quindi in base un po' anche al costo del volo si aggireranno intorno ai 250-300 euro per i 10 giorni. Ecco l'esperienza dal 22 luglio, le iscrizioni prima possibile ovviamente, sempre riferimento Beatrice alla Caritas di Padova, volontariato @caritaspadova.it. I rischi, perché penso a un genitore che dice magari anche un ragazzo di 20, 25 anni o 30, ma perché andare proprio a Tunisi se magari puoi fare un po' di volontariato qua vicino? Beh, i nostri contatti che sentiamo ogni settimana ci rassicurano molto, nel senso che al di là dell'attentato che è vero c'è stato, però è una città molto tranquilla ed è un paese molto tollerante e quindi sono proprio loro i primi che ci invitano a credere che appunto si possa sconfiggere la paura recandoci appunto a Tunisi, e comunque loro faranno tutto il possibile per garantirci la sicurezza. Tra l'altro in questi giorni anche su internet è partita una campagna con gli hashtag, ormai si usano quelli, cioè dei piccoli slogan con il cancelletto davanti, con delle foto per dire che cosa? Tunisi, io ci vado. Anche noi come Caritas Padova abbiamo appunto pensato di aderire a questa campagna postando la nostra foto. E allora cercate Tunisi, io ci vado, questo campo di servizio dal 22 luglio al 2 di agosto. Ma arriviamo in città vicino, dove non necessariamente ci sono problemi minori rispetto a quelli a Tunisi, anzi magari sono situazioni più nascoste che uno girando in città o bevendo lo spritz non vede. E questo, il nome di questa iniziativa è particolare, punti di svista in città, per cambiare anche un po' appunto l'occhio con cui si guardano queste situazioni. Di cosa si tratta? E anche questo è un campo di servizio in cui si cerca di guardare la città in modo diverso, da diversi punti di vista appunto. E le realtà in cui si andrà a fare servizio sono molte, sono le cucine economiche popolari, sono alcuni centri diurni per persone con disabilità, sono le attività della comunità Sant'Egidio. E in questo campo, oltre al servizio, poi ci saranno dei momenti di testimonianza, di incontro tra questo gruppo di giovani e le diverse proprio singole realtà, e quindi anche un modo per approfondire le realtà di volontariato che esistono nella nostra città. È un campo dove invece qui si sta, si dorme, non come quello per gli adolescenti di cui parlavamo la settimana scorsa. Qualche informazione tecnica, cioè la fascia di età, le date, gli eventuali costi. Allora, anche questo campo è rivolto ai giovani dai 18 ai 30-35 anni e qui c'è anche la possibilità magari di qualche 17enne. I costi sono limitati, sono di 50 euro a settimana. E le date? Le date dal 2 agosto all'8 di agosto. E anche qui, appunto, per ulteriori informazioni, sempre Beatrice, presso la Caritas di Padova. Facciamo un cenno, perché questo fascicolo è molto corposo, ad alcune iniziative a cui Caritas Padova compartecipa, ad esempio il progetto Policoro, è un nome che mi porta molto a sud Italia, no? Policoro. Certo, il progetto Policoro è un progetto voluto dalla CEI che coinvolge diversi uffici pastorali, tra cui Caritas, e quest'anno dal 17 al 23 di agosto andremo in Sicilia a conoscere appunto tutte quelle realtà che sono nate grazie a questo progetto Policoro, che vuole mettere in contatto il mondo giovanile con il mondo del lavoro. E quindi faremo un po' un tour delle realtà siciliane, Palermo, Troina e Catania. E anche questa è un'esperienza interessante. E poi, insieme ad altre Caritas della regione Triveneta, c'è Cantieri di Solidarietà, che sono diversi, cioè non ce n'è solo uno, quindi anche qui le proposte sono tante. Sì, sono tre i cantieri scelti da Caritas Triveneto. Uno è a Banja Luka in Bosnia e sarà per 10 giorni ad agosto. Un altro invece è in Georgia, a Kutaisi, presso un centro per ragazzi, dal 25 luglio all'8 di agosto. E l'ultimo cantiere scelto è quello a Portoviro, Chioggia, presso il centro di accoglienza per rifugiati, e saranno 2 settimane, una dal 18 al 24 di luglio e l'altra dal 14 al 20 di agosto. E allora, queste ulteriori proposte allargate, ma poi ce ne sono tante altre che voi semplicemente segnalate, che arrivano ad esempio dal SERMIG piuttosto che da altri territori della comunità deoniana, dall'ANFAS, insomma l'IRPEA, ce ne sono davvero tante. Fate riferimento alla Caritas di Padova, a Beatrice, volontariato@caritaspadova.it. Questo fascicoletto che abbiamo in mano, che noi stiamo sfogliando, dove si può trovare? Ma qui in sede Caritas, oppure anche in qualche parrocchia o all'ufficio Informa Giovani del Comune. Cercate appunto il fascicolo San Meron, estate 2015. E allora, grazie a Beatrice che ci ha accompagnato in queste due puntate di Excursus, appunto, sulle iniziative estive. Ormai manca poco, quindi il tempo per le iscrizioni stringe, e scegliete bene. Grazie Beatrice, buona estate. Grazie a voi, arrivederci. Avete ascoltato Prossimo Tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.